Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ecco qua. Da oggi inizia questa nostra preparazione pre-cambionato. Io preferisco che si faccia qui in montagna perché l'ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno di noi. Oh, voi sapete che le migliori tattiche di preparazione nascono da Coverceno. C'è chi ha usato la zona in un modo, la zona in un altro, il barone Lidom ha usato la zona lenta, il famoso Ericsson ha usato, buon per lui, la zona velocissima, mentre Berzot, per esempio, ha usato la zona mista, che scherzosamente da noi viene chiamata la zona pipa. Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa. In che cosa consiste questa bizona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma mister, che si gioca in 15? Il calcio è fatto di numeri, tattiche, formazioni, ma anche di personaggi. Quanto farebbe bene a questo sport un allenatore come Lino Banfi, qui calato nei panni del mitico Ronzo Canà, protagonista del film L'allenatore nel pallone. Oggi a Destini Incrociati si parla di allenatori in bilico tra gli schemi obbligati del campo e quelli tutti da rompere della vita. Di come due caratteri in apparenza inconciliabili riescano a trovare tra le pieghe delle partite un punto d'incontro. Per ogni atleta è innegabile l'importanza di un allenatore, non tanto durante la partita, quanto nell'arco di tutta l'attività sportiva. Più un giocatore riesce a entrare in sintonia con il suo mister, più il suo rendimento ne trova giovamento sotto tutti i punti di vista. Sotto, sotto! Quando salirai sul ring col campione del mondo dei pesi massimi, devi essere a punto, capito? Lo sai? Io ho aspettato più di 50 anni e tu devi essere a punto! Devi essere come una mitragliatrice, figliolo! Devi essere come quello che mangiava fulmini e ricagava i tuoni, capito? E poi ti ricorderanno come il killer di Filadelfia. Le storie più belle sono frutto di passione. L'importante è quello che si fa e come lo si fa. E la storia di oggi ha questo punto di partenza. La passione di un ragazzo per il gioco del calcio, per tutto quello che succede all'interno del rettangolo verde. Ed è questo amore folle che lo porta lontano da casa per inseguire i suoi sogni e il pallone. Questo ragazzo è il primo protagonista di oggi e il suo nome è Giovanni Galeone. Giovanni Galeone. Giovanni nasce a Napoli lo stesso giorno di gennaio in cui nasceranno Eusebio e Tostao, due fuoriclasse uniti dalla fantasia e dall'estro. Sarà forse un segno, perché è chiaro fin da subito che quel giovane napoletano non ha per nulla voglia di accodarsi agli altri e seguire la massa. Si trasferisce al nord e dopo Ponzia e Monza finisce all'Udinese, dove rimarrà a giocare a pallone per molti anni. Giovanni è un giocatore di calcio, una mezzala per la precisione. La sua caratteristica principale è quella di rubare palloni e far ripartire l'azione con tutta la fantasia del caso. Mentre corre, cerca di prevedere gli sviluppi dell'azione e poi piomba come un falco a spezzare le trame per ordirne di nuove. È un giocatore promettente, soprattutto da giovane, ma la carriera sarà inferiore alle attese. È lui stesso a spiegarci il perché. Una volta c'erano molto, cioè le società molto, molto rigide, molte cose, allenatori. Se mi vedevano appena appena sto braccio una ragazza dopo quando uscivo da scuola, così rompevano già le scatole, robe pazzesche, ti mandavano via dal ritiro perché non mangiavi il riso. Cioè, una volta erano delle cose completamente diverse. Io non stavo molto alle regole, dico la verità, proprio poco e niente. Però a giocare a calcio ero molto bravo. Le regole, come avete sentito, non fanno per lui. È chiaro come il ragazzo napoletano abbia intenzione di affrontare la vita, a modo suo. Sarà lui a scegliersi eventuali compromessi, senza aspettare che gli vengano imposti dall'alto. La carriera di calciatore di Galeone finisce nel solo modo in cui poteva finire, in maniera stravagante. Giovanni ha quasi 32 anni e deve affrontare con la sua Udinese il Parma, in uno spareggio che vale la promozione in Serie B. Negli spogliatoi agli amici e ai compagni confessa: se oggi perdiamo, io smetto. L'Udinese perde 2-0 e per la mezzala Galeone è davvero l'ultima partita. In questa decisione era chiusa tutta la logica e la follia del Gale, sempre pronto, ciuffo all'aria, ad affrontare la vita a petto. Non conosce altri modi, d'altronde. così come non conosce altri mestieri che non includano il pallone. Per il profeta, come verrà chiamato in seguito, la scelta dopo il ritiro è obbligata: fare l'allenatore. Mi consideravano già lì a Udine come, dato che un po' ero un po' quello che comandava lì, insomma, in campo. Mi vedevano un po' come quello che, insomma, indicava agli altri come giocare, come quello che aveva un pochino più personalità, più carisma, non so, insomma, ero uno insomma, che veniva tenuto in considerazione dalla società. Quando ho smesso di giocare non sapevo, però mi hanno dato subito la possibilità di allenare nel settore giovanile. Mi hanno proposto immediatamente. Io ho accettato, sono rimasto lì. Gli inizi non sono facili. Dopo l'esperienza a Udine, finisce al Pordenone prima e all'Adriese poi, in Serie D. Galeone mette dentro tutta la sua verve e la sua filosofia, ma non basta. Decide di iscriversi a Coverciano e di studiare là, frequentando il supercorso dove vengono plasmati gli allenatori di calcio. L'idea di Giovanni, o forse sarebbe più giusto definirla magnifica ossessione, è il gioco a zona. Il tecnico napoletano si innamora follemente di questa filosofia e decide di portarla con sé in giro per l'Italia. In effetti, il concetto di zona sembra tagliato su misura del personaggio Galeone. Lontano dalle vecchie concezioni, questo tipo di gioco ha un credo fondamentale. Il giocatore non deve preoccuparsi dell'avversario, ma della sua zona di competenza. A corollario, una serie di caratteristiche base, come ci spiega Arrigo Sacchi, l'ex CT del Milan e della Nazionale. Partendo dalla convinzione che il possesso palla e non mantenimento palla, il pressing e la velocità siano componenti altamente spettacolari e altamente efficaci per ottenere un risultato positivo, cerchiamo di riproporre ai giocatori queste situazioni in modo che vengano poi da loro recepite facilmente e che vengano da loro immagazzinate e poi riportate in campo senza alcuna problematica. La zona, il vero nodo gordiano del calcio italiano, sempre accusato di difensivismo e praticità. Probabilmente ispirati dal calcio olandese, in Italia, sul finire degli anni 70 e l'inizio degli 80, cominciano ad apparire i primi profeti del nuovo calcio votato allo spettacolo, contro l'individualismo e attento a evitare tatticismi esasperati. Gli allenatori che sposano la causa diventano personaggi, dal barone Lidlm a Sacchi a Zdenek Zeman, per citare i più famosi. Io vorrei vincere, però vorrei vincere come dico io, nel senso dare spettacolo, dare qualche cosa alla gente, dare emozione. A me diverte di più lavorare con i ragazzi, nel senso che ci puoi insegnare di più. A quelli che già sanno tutto è difficile insegnare qualche cosa. Ecco come in un'intervista al TG5 il tecnico boemo ci ricorda quali sono i punti cardine del suo calcio. Zeman ha carisma, sembra tagliato per portare avanti la sua filosofia, ma è un personaggio scomodo e in un pollaio troppi galli non vanno bene. Zeman attira su di sé simpatie e antipatie. È uno dei pochi tra gli integralisti ad avere guidato squadre di rango come Lazio e Roma. È lo stesso Galeone a spiegare senza mezzi termini che la zona non ha ancora un re. Leggo che molti copiano il suo calcio. In realtà probabilmente per un fatto storico è lui che può aver copiato il mio calcio, perché nell'86-87 lui ancora doveva nascere a Foggia. Quindi lui ha fatto, credo, la prima promozione col Foggia nel 90, ben 4 anni dopo. Ma è un falso storico che va avanti da un po' di tempo, è stata portata avanti così, va bene, avanti Savoia. Io ricordo solo un particolare, che una volta forse dovevamo incontrarli in Coppa Italia, loro erano in Civo, se non ricordo bene, andai a vedere la partita, questo mi tornò dietro, il mio osservatore mi disse: mister, questo qui è un fenomeno, ha copiato tale e quale il suo gioco. Vabbè, beato lui. Sono così gli innovatori, in perenne guerra tra di loro per dimostrare chi ha avuto l'idea per primo. Dopo i primi anni e il supercorso a Coverciano, Giovanni Galeone ha deciso. Porterà in giro per l'Italia il suo modo di vedere il calcio, insieme al suo modo di vedere la vita. Me and my All'inizio degli anni Ottanta il calcio italiano è in piena evoluzione. Sono state riaperte le frontiere e il nostro campionato accoglie i campioni stranieri che vogliono misurarsi con quello che viene definito il campionato più bello del mondo. L'Italia fa valere la sua supremazia anche in campo europeo, dove insieme alle squadre inglesi si contende le coppe più ambite. Nel 1982 arriva il capolavoro. Dopo quasi 50 anni dall'ultimo trionfo, l'Italia vince il campionato del mondo, grazie all'indimenticabile squadra guidata da Enzo Bearzot. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Insieme con il Brasile è tre volte campione del mondo. Ai titoli del 34 e del 38, al secondo posto del 70, il calcio azzurro aggiunge adesso il primo posto, il titolo di campione del mondo del 1982. Il mondiale è il successo del calcio all'italiana, un misto di qualità individuali e di un gioco di squadra votato a spegnere le iniziative avversarie per poi colpire in contropiede. Mentre tutto il mondo celebra il nostro calcio, uomini come Galeone, spesso incompresi o schiavi dei risultati, cercano di portare avanti il loro credo. Tra i personaggi cui la zona e Galeone stesso sono debitori, c'è senza dubbio Enrico Catuzzi. Meno famoso di altri colleghi, Catuzzi si svela al calcio italiano nel 1981, quando, dopo la vittoria inaspettata del campionato primavera alla guida del Bari, viene promosso in prima squadra e sfiora la Serie A, incantando con il suo gioco spumeggiante, trascinando con sé molti giovani che aveva allenato fino all'anno precedente. È il cosiddetto Bari dei baresi. Così Carlo Regalia, ex direttore tecnico della squadra pugliese, descrive in un'intervista scritta il credo dell'allenatore nato a Parma. A volte, durante le gare della primavera, se qualcuno usciva dagli schemi lo richiamava in panchina, anche se aveva finito i cambi. Non gli interessava finire in inferiorità numerica e rischiare di perdere. L'importante per lui era far crescere i suoi giocatori. Con lo stesso spirito, era anche capace di caricarseli in auto e portarseli a spese sue a Milanello. L'ha fatto tante volte, i suoi ragazzi lo adoravano anche per questo. Il destino di Catuzzi va a braccetto con i risultati altalenanti delle tante squadre che allena. In una di queste, il Pescara, approda nel 1984. Trascorre tre stagioni, durante le quali sfiora la promozione in Serie A, ma deve anche subire l'onta della retrocessione in C. Sembra una spada di Damocle per gli allenatori votati alla zona. Tanti applausi, ottime recensioni, ma risultati poco soddisfacenti. È il 1986 e il presidente della squadra abruzzese decide di dare continuità al progetto intrapreso da Catuzzi e ingaggia Giovanni Galeone. Il Galeone che approda a Pescara è un allenatore che non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. Dopo il supercorso a Coverciano passa prima alla Cremonese, dove viene esonerato dopo 15 giornate. Poi torna all'Udinese per occuparsi del settore giovanile, ma due anni più tardi è in Serie C1 chiamato dalla SPAL. A Ferrara rimane per tre stagioni, anche se nella seconda gli capita di essere esonerato alla sesta giornata per essere poi riassunto alla dodicesima. Giovanni porta con sé tutto il suo estro e la sua visione della vita. È sposato con un insegnante di lettere e ha interessi letterari. Fra le sue letture ci sono Camus, Sartre, Proust, Brecht. A volte si è addirittura portato in panchina un libro di poesie di Prévert. Ama il buon vino e le belle donne. Il suo credo calcistico è semplice quanto immediato. Non è vero che recuperano più palloni i giocatori che hanno il tackle più duro. Li recupera la squadra più organizzata e che spinge l'altra in un vicolo cieco, azzerandole gli sbocchi con un movimento collettivo. Il modulo è il 4-3-3. Il centrocampo a tre ti permette di avere una ripartizione dei ruoli, cosa che con quattro giocatori non ti può riuscire. Quei 10-12 metri di campo, zona ideale che puoi suddividere fra tre giocatori, ripartirlo per quattro elementi comporta problemi e scarico di responsabilità. Al suo arrivo a Pescara, Galeone deve affrontare una dura realtà. La squadra è stata ripescata dalla Serie C, dove era retrocessa, a pochi giorni dall'inizio del campionato e si ritrova ad affrontare un campionato con molte lacune. Fra tutte, l'impossibilità di fare mercato e acquistare giocatori di livello. E lo stesso Galeone a raccontare. Quelli del primo anno di Pescara erano i rimasugli di una formazione retrocessa dalla B alla C. Poi venduti tutti i migliori, quello che si poteva vendere, insomma, perché Pescara non aveva una lira, non era operativo. Solo alla fine arrivò Gaudenzi, cioè arrivò come lato gratis, perché Pescara non poteva comprare. E restavano tutti quelli che l'anno prima non giocavano, giocavano poco. Al di fuori forse di Gasperini, che era uno di quelli che aveva giocato un po' più degli altri. Galeone ci mette tutto il carattere che possiede e trascina i suoi ragazzi. La squadra sorprende per il suo modo di stare in campo e il calcio frizzante che esprime. Pur senza grandi nomi raggiunge la Serie A. Per Giovanni è un trionfo. Il calcio ha un nuovo profeta. Ecco Bortolazzi! 8 secondi! Galassi! 3 secondi! Di Cara! Cassarin! Sta controllando il cronometro! Posto! Ecco Bortolazzi! Bortolazzi è alla fine! Il Pescara in Serie A! Il Pescara è in Serie A! Il Pescara è in Serie A! Un miracolo! Quello di Pescara! Un miracolo! And now you're ready for your journey. One direction, reaching high. The feeling of the spirit. Always present as you climb. One direction, one vibration. That's the message. Let's try. Siamo a Pescara, in Abruzzo, a metà anni Ottanta. Un giovane allenatore scapigliato e un po' bohemien trascina la squadra di calcio della città in Serie A. E una volta lì, continua a sorprendere. Nella massima categoria, il profeta, finalmente con un palco alla sua altezza, sfodera tutta la sua grinta. Il Pescara si salva. E già questa, di per sé, sarebbe un'impresa. Ma non si limita a questo. Offre un bel gioco, valorizza i propri giocatori e si permette il lusso di battere due grandi come l'Inter a San Siro, addirittura all'esordio nella massima serie, e più avanti la Juventus in casa, in uno stadio adriatico che ormai lo ha eletto a proprio timoniere. L'amore tra Galeone e la città abruzzese diventa a questo punto indissolubile. I tifosi riempiono lo stadio ogni domenica con striscioni che inneggiano al proprio allenatore. Dio inventò il pallone e non contento fece Galeone. È solo uno dei tanti messaggi d'amore che campeggiano tra gli spalti. La stagione successiva tutti aspettano la squadra abruzzese al varco. Inizialmente la compagine non delude. Finisce il girone di andata circa a metà classifica. Tutto sembra indurre a pensare che il miracolo si possa ripetere. Ma con Galeone e i suoi ragazzi la logica viene meno. Il girone di ritorno è una specie di salto nel vuoto. Dopo una vittoria, la squadra inanella una serie infinita di pareggi e sconfitte e alla fine retrocede. Tra le tante partite di quella sciagurata seconda parte di stagione, ce n'è una che fotografa perfettamente l'andamento. E Napoli-Pescara. Finisce 8-2 per i partenopei. Così, un indimenticabile Luigi Necco conclude il suo collegamento dopo aver commentato la partita al 90° minuto. Comunque, bisogna dire che è una partita che ha giocato soltanto il Napoli. Galeone si rifarà, glielo auguriamo e se lo merita anche. Dobbiamo dire una cosa. Sì, il Napoli temeva molto, deve andare a Lipsia mercoledì prossimo. E Lipsia ha battuto la sua avversaria 2 giorni fa per 7-2. Il Napoli ha battuto per 8-2. Può stare tranquillo. In seguito a questa stagione travagliata, Galeone e il Pescara si lasciano. Una pausa di riflessione, come nelle più classiche storie d'amore. Anche il distacco, talvolta, serve a capire quanto contino gli affetti. Si riuniranno i due agli inizi degli anni 90. Una nuova sfida. Sentiamo il tecnico napoletano. Io arrivai alla fine dell'anno precedente, al posto di Mazzone, e l'anno successivo mandai via, credo, una decina di giocatori, 10, 12... tutti, praticamente tutti quelli che aveva comprato Mazzone. Pescara vuole tornare a sognare. La Serie A è di nuovo nel mirino e, come avete sentito, ci sono delle novità nella squadra. Una di queste è una mezzala, proprio come il suo allenatore. È un giocatore di carattere, con ottimi piedi, un livornese doc. Ancora non è esploso, ma i mezzi tecnici sono innegabili. C'è una favola da portare avanti e quel giocatore deve mettersi a disposizione del profeta. Il suo nome è Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri. tutto quello che ho. Destini incrociati. È il 1991. A Pescara, sul campo di allenamento, si muovono Giovanni Galeone e Massimiliano Allegri. Il primo detta le regole, urla e riprende i giocatori. Il secondo corre e suda mentre cerca di capire le insolite istruzioni del suo allenatore. Il destino questa volta non si è manifestato come un bagliore accecante. Galeone e Allegri non si conoscono e fino all'ultimo le loro strade sembrano non potersi neppure lontanamente incrociare. È lo stesso tecnico a raccontarlo. Federico Bonetto, è andato a Pavia a vedere questo giocatore. Siamo andati insieme a vedere questo Massara alla sinistra. Mi piaceva abbastanza, mi è piaciuto, quindi ho parlato con la signora Achilli, con il marito. La signora Achilli era presidente del Pavia allora, la signora Giusi Achilli, e fu lei a insistere, mi diceva a me, no, ma prende anche Allegri, prende Allegri. Io non lo conoscevo questo Allegri, ovviamente. Finché disse, guardi, la Sara mi ha chiesto anche altre squadre, Palermo, Venezia, eccetera, io per giustificare che scelgo voi per andare in Massara, almeno posso giustificare col fatto che voi prendete due giocatori invece di uno. Allora sai così, dammi Allegri. Un incontro non voluto, uno scambio, quasi come se al posto degli uomini ci fossero le figurine. Tu mi dai quello, in cambio però ti prendi anche questo. È il calciomercato con le sue regole un po' folli. Allegri sbarca a Pescara quasi per caso, quindi, e senza essere desiderato. Addirittura come fardello, in un certo senso. L'unico modo per garantirsi quel Massara che Galeone ritiene tanto indispensabile per il suo gioco. Ma presto i fatti rivoltano il tutto. Massara è bravo, come tutti si aspettavano, ma quel ragazzo livornese magro, dallo sguardo sardonico, non è niente male. Anzi, il tecnico napoletano capisce subito che ha appena concluso un grande affare. Allegri ha iniziato la sua carriera da calciatore qualche anno prima. È la sua amata Toscana a fargli da trampolino. Cuoio Pelli, Livorno e Pisa sono le sue prime esperienze. Con questi ultimi esordisce anche in Serie A. Massimiliano affianca agli allenamenti e alle speranze tutta la livornesità del suo carattere. Ciao Paolo, come stai? Scusami, ma sono dovuto venire io perché Tommaso non poteva. Comunque non c'è male. Te come stai? L'hai mangiato, devi mangiare. Ma che lì non c'era il mare, io volevo fare subito il bagno. Dio buono, cioè sì, qui manca tutto perché il mare. A Livorno manca tutto, come dice il protagonista di Ovo Sodo, il film di Virzì di cui avete appena sentito un estratto. In realtà c'è molto in Livorno e nei suoi abitanti. Spirito libertario e indipendente, esuberanza, spontaneità, una dialettica fuori dal comune, ma anche discrezione. C'è molto, di conseguenza, anche in Massimiliano Allegri, che ora è a Pescara e ascolta incuriosito le direttive del profeta Galeone. Un giorno ricorderà molto bene le sue parole e i suoi metodi e li farà suoi. Galeone affronta la sua seconda esperienza a Pescara con la consueta personalissima esuberanza. È subentrato da poco a Carletto Mazzone e riesce a salvare la squadra dalla retrocessione in Serie C. L'anno dopo, ai nastri di partenza, la compagine abruzzese si presenta agguerrita. Allegri illumina là davanti e per la seconda volta il miracolo si ripete. Il Pescara arriva secondo ed è promosso in Serie A. Sono passati 4 anni e ci sono delle differenze tra i due Pescara di Galeone. Sentiamo il mister. Probabilmente come velocità di esecuzione, come sviluppare l'azione in profondità più veloce la prima squadra che avevo, proprio quella lì era velocissima, 2 passaggi, 3 passaggi, non importa. La seconda era molto tecnica, più fantasiosa, faceva i numeri, quando arrivava là davanti proprio inventava. aveva dei grandi colpi, perché sia Bivi che Allegri, Pagano, Massara, che si avevano tutti ottimi piedi, quindi facevano numeri strani. Dopo la promozione, Allegri è libero di esprimere tutto il suo talento nella massima serie, come nei sogni di ogni giocatore. E guidato dal Profeta, disputa la sua migliore stagione. Arriverà a segnare 12 reti in totale, un risultato eccellente per un trequartista appena arrivato al grande calcio. Ormai è chiaro che tra Galeone e Allegri si è creata una specie di feeling. Il primo non mancherà di richiamare il suo pupillo in altre avventure più avanti. Succederà a Perugia, a Napoli e infine nuovamente a Pescara. Il secondo sfrutterà il trampolino messogli a disposizione per provare a lasciare un segno nel calcio che conta. Nel 1993 viene acquistato dal Cagliari per 7 miliardi, una cifra molto importante per quei tempi. Nel capoluogo sardo, Acciuga, come viene soprannominato a Livorno, alternerà prestazioni importanti ad altre più sottotono, senza riuscire mai a esprimere compiutamente tutto il suo talento. Ma Cagliari avrà modo più avanti di riapprezzare, questa volta in tutto e per tutto, le capacità di Massimiliano. La carriera di Allegri andrà avanti fino al 2003, quando decide di appendere le scarpe al chiodo. Sul punto interrogativo che emerge riguardo alle soddisfazioni e al percorso di calciatore del Livornese, è Galeone a esprimere un pensiero che racchiude tutta la stima e il rammarico per un giocatore che forse non ha ricevuto quello che meritava. Allegri non ha avuto carriera per niente. Perché Allegri è andato via da noi in Serie A, aveva fatto 10 gol, credo, cose del genere, è andato a Cagliari e ha giocato poco in Inter. Poi è ritornato via, era andato a finire a Padova in Serie C e faceva fatica a giocare a Padova. E poi l'ho riportato io in Perugia. A Perugia sì, siamo tornati in Serie A col Perugia, no? Nel 94. Con lui in quel periodo lì non giocava a Padova in Serie C. Io l'ho portato lì a Perugia, lui nel giro di due settimane era libero indiscusso in spogliatoio, lui e Chico Giunti, siamo andati in Serie A. Insomma. Un generatore bravissimo, ma non ha avuto niente assolutamente. Io non dico che era bravo con me, ma quasi. Un momento un po' così forse, non lo so, io l'avrei fatto giocare dappertutto in Serie A. Probabilmente anche allo stesso Allegri, quando smette di giocare, rimane un sapore dolce e amaro in bocca. Probabilmente la sua storia con il calcio non è ancora finita. È lo stesso Galeone a rendere omaggio al calciatore. È stato un grande giocatore di calcio che ha avuto poco. Ma lui era bravissimo, ma veramente. Come calcio, come precisione, come soluzioni, come ricerca della soluzione più giusta. Era un giocatore vero, questo qui. Allegri troverà il modo per riappropriarsi di tutte quelle soddisfazioni che sembravano svanite. All'Aglianese, dove disputa le ultime partite, sono in cerca di un allenatore. Ecco come farà, come il suo Profeta. Allenerà e tornerà di nuovo a rincorrere la gloria. Ultimi 40 secondi, Giorma va subito a canestro, appoggia al vetro anche con contatto e segna in un amen, riportando a meno 1 Chicago, discrepanza di circa 13 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Chicago non vuole prendere un gioco da 3 punti, vuole eventualmente la palla anche se segna aiuta per il pareggio, a sua volta con un gioco da 3 punti la ruba, Giorma e se la prende direttamente dalle mani di Malone. Ultimi 15 secondi, meno 1 Chicago, il palleggio per Ci sono tanti modi per terminare una carriera sportiva. Il modo migliore è senza dubbio quello che ha segnato la fine della professione di Michael Jordan, probabilmente il giocatore di basket più forte di tutti i tempi. Un canestro a fil di sirena è la gloria che ti circonda con il pubblico che esclama il tuo nome a gran voce. ma per la stragrande maggioranza degli atleti l'ultima partita è esattamente come le altre. E al di là di qualche pacca sulle spalle dei compagni e degli amici, oltre a un meritato applauso, il sipario si chiude e la vita continua. Ad Agliana, in provincia di Pistoia, Massimiliano Allegri ha appena terminato la sua carriera di calciatore. Come tutti i calciatori che appendono le scarpette al chiodo, si trova davanti a una scelta. Abbandonare quel mondo che l'ha circondato in tutti questi anni e staccare la spina? Oppure continuare portando tutta la sua esperienza dietro la linea del fallo laterale? Sulla panchina, come ha fatto a suo tempo il suo mentore, Giovanni Galeone. Allegri qualche dubbio ce lo deve avere. Da una parte probabilmente sente che il mondo del calcio non gli ha restituito esattamente quello che meritava. Ha avuto una carriera prestigiosa, sì, ma lui ha ancora qualcosa da dire. Dall'altra c'è il desiderio di chiudere un capitolo della propria vita definitivamente e di voltare pagina. Ci sono scelte famose. Quella di Allegri, cioè quella di restare nel mondo del calcio e allenare, sul momento passa inosservata ai più. Ma a ben guardare c'è qualcosa di particolare. A Massimiliano succede esattamente la stessa cosa che successe a Galeone anni prima. Il presidente dell'ultima squadra in cui ha militato gli offre la panchina. E non è l'unica somiglianza. Il tecnico livornese, dopo l'esperienza all'Aglianese, si siede sulle panchine di Spalla e Grosseto, proprio come fece il Gale. È un destino che lancia messaggi, quello che circonda Max, che dopo un inizio tra alti e bassi finisce in provincia di Modena, a Sassuolo. In Emilia Allegri riesce a trovare l'equilibrio che gli è mancato in tutta la carriera di giocatore. Sono lontani i tempi delle ragazzate, dei piccoli e grandi colpi di testa, come quando abbandonò all'altare la sua promessa sposa, o quando fu costretto a fermarsi per un anno a causa di una squalifica per illecito sportivo. La livornesità di Massimiliano si evolve in un aspetto sempre più rigido e composto. Acciuga, o ancora Acciughina per i veri intimi, sta diventando un ottimo allenatore. Il suo credo è lo stesso del profeta, un 4-3-3 votato all'attacco. Non potrebbe essere diversamente. Col Sassuolo viene promosso in Serie B e vince anche la Supercoppa della Serie C1. L'anno dopo sarà insignito del premio Panchina d'Oro per la sua eccezionale annata alla guida degli emiliani. Il nome di Allegri comincia a circolare tra quelli dei migliori tecnici emergenti. Il momento è arrivato. Il destino ha ancora in serbo molte sorprese per Massimiliano. Dopo la straordinaria stagione in Emilia, c'è una società che lo cerca e lo vuole a tutti i costi. È il Cagliari, la stessa squadra che lo aveva voluto anni prima come giocatore e in cui Allegri non riuscì a esprimersi al livello che si auspicavano sia lui che il giovane presidente Cellino. Lo stesso presidente ora lo vuole per dirigere la squadra. Ben presto si accorge che qualcosa è cambiato in Acciuga. Ora sembra un altro. È lo stesso Cellino, in un'intervista, a elencare le sorprendenti novità che avrà modo di apprezzare a breve. È giovane, poi è uno che gioca per vincere, è uno che esprime un calcio impostato sulla costruzione, non sulla squadra avversaria. E poi è un ragazzo che ascolta la società e ha imparato a capire cosa vuol dire andare in sintonia con la società e condividere i programmi. Il 29 maggio 2008 Allegri firma un contratto annuale con il Cagliari, ottenendo quindi il suo primo ingaggio da allenatore di Serie A. C'è molta curiosità attorno a questa avventura. L'allenatore livornese è in costante contatto con il profeta Galeone, con cui non smette mai di scambiare pareri e parlare di calcio. Hanno la stessa filosofia e spesso i giudizi sui giocatori combaciano. Il calcio è cambiato dai tempi in cui il profeta aveva iniziato ad allenare, ma Giovanni non è certo tipo che si arrende facilmente. Galeone continuerà ad allenare finché ci sarà qualcuno disposto a offrirgli la panchina. L'inizio per Allegri è in salita. Nelle prime 5 partite totalizza 5 sconfitte. Tutto porta a pensare a un probabile esonero. Nel calcio di oggi, dove i risultati pesano e corrono alla stessa velocità delle immagini, un bottino così misero suona come una condanna a morte. Lo stesso presidente Cellino ha fama di uno con poca pazienza, soprattutto con gli allenatori. Sentite come lo descrivono in una trasmissione sportiva a lui dedicata. Sono passati 169 mesi dal giorno in cui Massimo Cellino è diventato proprietario del Cagliari. Un'epoca che continua, segnata da caratteristiche particolari. Di certo non si può parlare di uno stanco matrimonio. I volti del Cagliari cambiano in fretta, in particolare quelli degli allenatori. 18 diversi per 24 gestioni. Incredibilmente Cellino risparmia Allegri. Decide che si andrà fino in fondo con lui. e il livornese, superato l'imbarazzo dell'esordio, ingrana la marcia giusta. La stagione 2008-2009 si conclude con la conquista del nono posto a ridosso delle competizioni europee. L'anno successivo, forse il più difficile, quando uno deve confermare ciò che ha fatto di buono, sembra una fotocopia di quello precedente. Il Cagliari parte male, raggranellando un punto nelle prime 5 partite. Dopodiché, come per incanto, inizia la consueta striscia di risultati positivi, finché un bottino di 2 punti in 8 partite nel finale di stagione non risveglia i pruriti del presidente cagliaritano, che un bel giorno decide di voler fare a meno di Allegri, nonostante manchino poche partite alla conclusione del campionato e la squadra sarda sia virtualmente salva. Quello che la maggior parte della gente non sa è che la sterzata compiuta da Cellino è molto di più di un semplice colpo di testa. Da un po' di tempo l'allenatore livornese è sotto gli occhi del Milan, che ha intenzione di aprire un nuovo ciclo. Evidentemente il presidente del Cagliari ritiene che questo interesse distolga la mente dell'allenatore dal suo lavoro e per questo lo caccia. L'iniziale sgomento viene però presto superato. Il Milan ha realmente intenzione di puntare su Allegri. Il 25 giugno 2010, un comunicato sul sito rossonero annuncia l'ingaggio del tecnico. Queste le sue prime parole da milanista. Sarebbe presuntuoso da parte mia prendere e rivoluzionare tutto in una squadra che l'anno scorso ha funzionato fino a 6 partite alla fine era in lotta per vincere lo scudetto. È normale che io possa avere sicuramente idee diverse e cercherò di apportare dei diversivi di quelli che rispetto a quelli dell'anno scorso. Acciuga tocca il cielo con un dito. In soli 6 anni è arrivato ad allenare una delle squadre più forti del mondo. Mentre parla ai giornalisti che lo investono con i flash, Allegri sfoggia tutta la sua calma acquisita e la sua determinazione livornese. Ci vuole delle regole, ci vuole della disciplina, ci vuole rispetto. E quando abbiamo queste cose sicuramente è più facile lavorare e ci vuole educazione. Ai nastri di partenza del campionato, il Milan e il suo nuovo allenatore si portano dietro dubbi e perplessità, che sfumeranno pian piano col passare delle partite. Allegri mostra tutta la sua maturità e si mette alla guida di un gruppo che, intuito il carisma e le capacità tecniche, lo segue in maniera compatta. Dal canto suo, il tecnico porterà avanti il suo credo calcistico votato all'attacco, con tutto il pragmatismo che serve quando alleni un club importante. La cavalcata durerà un anno e culminerà in uno scudetto tanto agognato quanto temuto. È il capolavoro del ragazzaccio toscano che in un colpo solo zittisce tutti i detrattori e corona il sogno che il suo maestro, quel Giovanni Galeone che per primo seppe intuire e valorizzare le sue qualità, ha mancato, per un motivo o per l'altro, nel corso della sua carriera. Ecco perché, a titolo acquisito, Allegri ha ben chiari nella testa i meriti e i motivi di questa vittoria. Me lo sento anche un po' mio, è normale, ho allenato questa squadra sbagliando, facendo le cose giuste e poi dopo era normale che arrivato al Milan dopo solamente 2 anni di Cagliari ci fossero dei dubbi da parte di tutti, dei media, da parte di tutti, ma questo credo che sia una cosa normale, sia nella prassi, perché quando un allenatore arriva a allenare il Milan o gli altri club più importanti al mondo, credo che soprattutto uno che arriva come me, è normale che ci siano dei dubbi e ci siano, come li chiamate voi, gli esami, ma credo che le sfide e gli esami facciano parte della vita. Allegri ha davanti a sé un futuro tutto da scrivere. Di certo ha iniziato bene il racconto, merito del maestro che gli ha fornito gli insegnamenti giusti. C'è un aneddoto che racchiude il valore del rapporto e del filo che lega e ha legato le vite di Massimiliano Allegri e Giovanni Galeone. Succede poco dopo che il Milan ha deciso di affidare la panchina al giovane toscano. Una mattina il cellulare del profeta squilla. È Adriano Galliani, amministratore delegato dei rossoneri, che vuole avere la conferma di aver fatto la scelta giusta. È facile immaginare quale sia stata la risposta di Galeone. Il resto è storia. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.